Quando si tratta di migliorare un'unghia, ottenere un miglioramento cosmetico, dobbiamo orientarci anche in una direzione molto semplice, quello che ci piace di più, potendo scegliere però tra le cose che sono migliori per il nostro punto di vista. Per il mio punto di vista di dermatologa, io prediligo i prodotti ecodermocompatibili, quindi esenti da paraffine e siliconi. Cosa vuol dire? Gli oli vegetali come oli, oppure i gel senza siliconi, a Basta meno che non ci leggere siano, basta l'etichetta, leggere le adesso è etichette. facile. E ci sono degli oli particolarmente interessanti come l'olio di neem, per esempio, che ha un'azione rinforzante, neem o neem, che ha un piccolo, diciamo, Che inconveniente, costa puzza, tanto. Ah, meno puzza. male. E vabbè, Per la cui puzza. se una persona, eh sì, ma se una persona non sopporta la puzza del neem o neem, e lo mette per esempio alla sera e il partner si lamenta, cos'è meglio? Avere le unghie Si forti manda o il partner al contento? partner a lavare, a fare i piatti, Si mette il eccetera. Si... neem anche al partner. Oppure si può ricorrere a qualsiasi altro olio vegetale, anche il semplice olio di oliva, l'olio di germe di grano, l'olio di argan, l'olio di sesamo, rinforzato magari con un paio di gocce di olio essenziale di lavanda o di rosmarino.